Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, si conclude con l'ultimo volume, la trilogia che Carlo Maria Lomartiri ha dedicato a un periodo storico fondamentale per Milano, quello della Signoria degli Sforza, e questo terzo volume si intitola Gli ultimi duchi di Milano, il crepuscolo degli Sforza e l'inizio delle dominazioni straniere, pubblicato da Mondadori, 196 pagine, 20 euro. L'Italia ormai è stata invasa dai francesi di Luigi XII nel 1499, il ducato è minacciato e Ludovico il Moro è fuggito a Innsbruck presso la corte dell'imperatore Massimiliano, e lì incontriamo qualche anno dopo, nel 1507, i figli di Ludovico, i figli legittimi, Ercole, Massimiliano e Francesco, ai quali avrebbe dovuto essere affidata la responsabilità di restaurare il dominio di Milano. Comincia un periodo tormentato che metterà in luce difetti, soprattutto di Ercole Massimiliano, e pregi, soprattutto di Francesco, che segneranno il destino ultimo degli Sforza e di Milano. E sentiamo dall'autore qualche aspetto su questo periodo così tormentato e decisivo. Buonasera Carlo Maria Lomartire. Buonasera, buonasera a voi. Carlo Maria Lomartire, questo libro conclude dunque un studio lungo sul periodo degli Sforza, come ricordavo prima. Allora, facciamo un bilancio finale. Che cosa ha scoperto di questo periodo? Che cosa hanno rappresentato gli Sforza per Milano e per l'Italia? E qual è stata la sorpresa maggiore in questo studio? Gli Sforza per Milano hanno rappresentato nella maniera più positiva la continuazione, ma anche l'enfatizzazione degli sforzi di, diciamo così, di monumentalizzazione, di valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale di Milano. Ma soprattutto Francesco Sforza ha rappresentato il primo esempio di, come dire, di welfare moderno, nel senso che, caso più significativo, la Cagranda, quella che oggi è la statale, è stata realizzata da Francesco Sforza ed è il primo grande ospedale pubblico in Europa. Ecco, su questa, sulla scia di questo esempio, gli Sforza hanno rappresentato molta modernizzazione del Ducato e di Milano in particolare. Dopodiché i collegamenti con le grandi potenze europee e perfino le occupazioni che seguiranno dopo gli ultimi duchi, quindi all'epilogo di questo mio terzo libro, in fondo rappresentano anche la prima forma di internazionalizzazione, di cultura europea del Ducato di Milano. I tre secoli di occupazione straniera che seguiranno agli ultimi duchi in realtà hanno portato Milano in contatti continui con la Francia, con la Spagna, col Sacro Romano Impero, cioè la Germania, e hanno rappresentato appunto una prima forma di internazionalizzazione. Questo è stato molto importante per la cultura di Milano in questi secoli. Veniamo al periodo che considera in questo libro. A un certo punto Francesco Sforza, che è il figlio minore di Ludovico, definisce il fratello Ercole Massimiliano uno zimbello manovrato da altri. Quindi Milano non contava più nulla in quegli anni. Sì, contava molto poco di già, in effetti. C'è lo sforzo di farla tornare all'autonomia e al prestigio che aveva avuto sia con Francesco sia con Ludovico il Moro, ma non ci riescono soprattutto perché ormai lo squilibrio economico e di potenza politica militare fra Milano ma anche tutti gli stati italiani e le grandi potenze europee emergenti, la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, anche se lontana, comunque qualcosa contava anche per Milano, e il Sacro Romano Impero, che comunque era una potenza in sé, il Sacro Romano Impero Germanico, cioè l'imperatore che gestiva i rapporti fra tutti gli stati tedeschi. Tutto questo in realtà metteva gli stati italiani e Milano in particolare, ma anche Firenze per esempio, che era forse quella che godeva del massimo prestigio europeo, li metteva in secondo piano. Qui, secondo me, da questo discende un vizio della condizione politica e della cultura italiana, cioè la divisione. insistere sulla capacità di dividersi e non sulla capacità di unirsi, cosa che hanno fatto gli altri, anche se sono stati fortunati in un certo senso, perché questi grandi stati unitari, Spagna, Francia, eccetera, molto spesso diventano unitari anche per effetto di eredità, matrimoni, eccetera. Ma tutte cose che però gli stati italiani cercavano di evitare, per non dover unirsi agli altri e quindi dividere, condividere la propria condizione con altri. Quindi possiamo dire che quella debolezza di Milano sconvolse gli equilibri che erano stati faticosamente costruiti negli anni precedenti e in qualche misura segnò il destino anche dell'Italia per almeno qualche secolo. Certamente sì, gli equilibri italiani in quegli anni erano dovuti soprattutto alla forza del rapporto fra gli Sforza e i Medici, poi c'erano anche gli altri, ma gli Sforza e i Medici avevano tutto l'interesse e tutta la volontà di mantenere la situazione in equilibrio, ma mantenendo la propria autonomia. A un certo punto questo gioco diplomatico-politico non gli è più riuscito. Anche se il figlio minore, Francesco, cercò poi di reagire, con lui riprende l'economia, Milano, fioriscono di nuovo le arti. Esatto, Francesco dei due figli di Ludovico, il secondo, Francesco II, è il più zelante, il più attento, il più disciplinato, è quello che ha più il senso dell'onore sia dello Stato sia della dinastia, quindi si sforza in tutti i modi di ridare prestigio e autonomia al Ducato. In parte ci riesce, l'economia riprende, anche una certa forma di ripresa edilizia monumentale, diciamo così, riprende, ma come dicevo prima ormai è troppo tardi, cioè gli altri sono troppo forti e troppo interessati a impadronirsi del Ducato di Milano, testa di ponte, padronirsi poi o comunque avere influenza su tutta la penisola, gli altri erano troppo forti e la buona volontà di Francesco II non è bastata. E il povero conte di Caravaggio fece una brutta fine, ce la racconta? Esatto, ma poverino, non riuscì a mantenere la cosa in equilibrio, dovette soggiacere alle volontà e alle prepotenze dei francesi e degli spagnoli, perché poi quello era anche un gioco delle parti. Grazie a Carlo Maria Lomartire, autore degli Ultimi Duchi di Milano. Buona serata. Grazie, buona serata a voi. Restiamo in quel periodo, andando indietro solo di qualche anno, nel 1498, quando si concluse drammaticamente a Firenze l'avventura di Gerolamo Savonarola, il frate di Ferrara che aveva dato vita a un breve regime teocratico nella sua città, che si concluse con la condanna al rogo del frate. Di questo personaggio, comunque affascinante, ci narra la storia uno storico dell'Università di Bergamo, Marco Pellegrini, in Savonarola, profeta e martire nell'età delle guerre d'Italia. Tra l'altro, proprio di questo periodo l'autore è studioso riconosciuto. Il libro è pubblicato da Salerno, 372 pagine, 25 euro. Non si tratta qui di una semplice biografia, perché la figura di Savonarola è letta anche nel quadro dei difficili equilibri di cui Firenze e Milano, con Roma, Napoli e Venezia, equilibri che riguardavano tutta l'Italia, erano protagoniste, e equilibri che furono appunto travolti dalla calata dei francesi. L'esperimento teocratico di Savonarola era volto a trasformare Firenze in un regime teocratico, e il libro naturalmente approfondisce questi aspetti, questa trasformazione di Firenze in una Gerusalemme in riva all'Arno, di cui l'esito è così riassunto in queste righe. Proprio come gli ebrei nei tempi biblici, i fiorentini del tardo 400 ritennero di essere stati prescelti da Dio per compiere uno straordinario percorso di distacco dall'asservimento alle potenze del male. Grazie a Savonarola, i devoti di Firenze ebbero l'esaltante sensazione di possedere un privilegio che sarebbe tornato a vantaggio di tutte le genti, compresi gli ebrei e gli infedeli. Va detto che la realtà rimase tragicamente al di sotto di un traguardo così elevato. L'adozione di un codice di santità non sembrò apportare a Firenze alcuno dei segni di benedizione che Savonarola aveva promesso. Al contrario, si infittirono le situazioni di svantaggio. Anzitutto sul piano materiale. Anziché godere della pace interna e di un profluvio di beni in misura ancora maggiore rispetto al passato, la cittadinanza fiorentina andò incontro a una congiuntura di ristagno. in cui il lavoro prese a scarseggiare, gli investimenti calarono e il disagio dei ceti inferiori si fece inarrestabile. E a questo punto... Il confettino. Facciamo ancora un passo indietro di pochi anni, restiamo nella Firenze Medicea con due ragazzi nella Firenze dei Medici di Marco Di Tillo, che è scrittore e regista, è pubblicato per Edizioni Corsari, illustrato da Giacomo Agnello Modica, 80 pagine, 12 euro, in cui un giovane Pietro, fan di Giuliano de' Medici, si troverà a suo malgrado coinvolto in uno dei momenti più drammatici nella storia di Firenze, cioè la congiura dei pazzi. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Ma è possibile che c'è? Le piroette della politica, le notizie che arrivano da ogni parte del mondo, la cronaca nera, la cronaca bianca, lo sport, gli spettacoli, io non ci capisco più niente. Ma come si fa a seguire tutto? Scusa, ma tu ascolti Effetto Notte? No. Ah, ecco, si capisce. Effetto Notte, di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21, su Radio 24. In modo che un giorno non potrete dire: io questa mica la sapevo. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parlavamo prima di Savonarola e allora parliamo adesso di un personaggio che aveva conosciuto e ascoltato attentamente. Savonarola aveva anche subito il richiamo che poi ritroveremo nelle sue opere al concetto di rinnovazione, cioè Niccolò Machiavelli, che è al centro del libro di Nicola Gardini, docente di letteratura italiana a Oxford, appassionato divulgatore del latino, nell'opera Rinascere, storie maestre di un'idea italiana, è pubblicato da Garzanti, 282 pagine, 16 euro. Questo libro ci presenta le figure principali di questa epoca straordinaria, il Rinascimento. Incontreremo in particolare Leonardo, Poliziano, Pico della Mirandola, Giovanni Pontano, Cassandra Fedele, Lorenzo de' Medici, appunto Machiavelli, Fracastoro e Ariosto, protagonisti tutti di un'epoca che Gardini vuole farci capire quanto sia attuale, anzi imprescindibile, e capace ancora di ispirare ancora oggi, perché archetipo del rinascere, così lo definisce. Sentiamo allora come definisce questo periodo Gardini. Il Rinascimento propone anzitutto una teoria dell'eccellenza umana, un sistema educativo che, indagando la posizione dell'essere umano nella storia del mondo, invoca il progresso dell'individuo e della società e una sola memoria culturale. Il Rinascimento si realizza come osservazione della realtà empirica, come amore del linguaggio, come culto della lettura ragionata e della condivisione intellettuale. Nato da alcuni centri italiani e diffusosi presto in altri paesi, il Rinascimento ha fissato ideali, modelli e metodi. È diventato una rivoluzione e ha preparato altre rivoluzioni, come quella scientifica o l'illuminismo. Certa critica l'ha chiamato, per riassumere, umanesimo, e ha scelto bene il termine, perché il Rinascimento crede nel valore dell'essere umano, l'humanitas, e vuole misurarne le potenzialità nei più vari campi, mirando a costruire società felici. Ognuna delle figure scelte illustra una propria idea di rinascita nel campo dell'arte, della politica, della scienza, della poesia, e contribuisce a darci del Rinascimento, l'epoca che riscopre la civiltà classica, l'immagine di una civiltà del futuro, perché, come spiega l'autore, il pensiero dell'avvenire è sempre posto al centro dell'indagine intellettuale, linguistica e artistica. La conoscenza si forma su prototipi di eccellenza che la tradizione ha consegnato, ma il fine ultimo di tale conoscenza è l'interpretazione del futuro, perché rinascimentalmente l'uomo deve pensare il futuro e, pensando il futuro, preparare felicità e pace universali. Un altro libro che ci conduce in quegli ambienti è dedicato in particolare proprio alla cerchia di Machiavelli, si intitola Tutti gli uomini di Machiavelli, il libro di Marcello Simonetta, docente di storia europea a Parigi, nonché consulente di videogiochi. Il sottotitolo è Amici nemici e un amante, pubblicato da Rizzoli, 250 pagine, 18 euro. Scritto in un linguaggio molto discorsivo, questo libro è molto utile per conoscere da vicino Machiavelli, sul quale, ricorda l'autore, si è detto tutto il contrario di tutto. È un libro per il lettore generico, dice l'autore, e anche per quello specialistico. Entrambi, avverte, troveranno qui piccole grandi sorprese che le accompagneranno in una promenade istruttiva o inaspettata. I personaggi sono tanti, 22, compresa l'amante infedele, Barbara Salutati, alcuni sono molto noti, esprimo delle competenze, delle conoscenze diverse, alcuni sono dei frenemies, cioè degli amici nemici, e fra questi troviamo naturalmente l'alleato rivale, ossia Francesco Guicciardini. I ritratti sono, come dicevo, molto leggibili, godibili, ma altrettanto fortemente basati su una ineccepibile documentazione d'archivio. Uno di questi personaggi, Niccolò Valori, ci consente di richiamare l'ambivalente reazione che Machiavelli ebbe nei confronti di Savonarola, sul quale scrisse la sua prima lettera nota. In questa lettera egli esprime, secondo l'autore, un atteggiamento ambiguo che oscilla tra sferzante ironia e stupita ammirazione verso il profeta disarmato. Restiamo in ambiente storico, ma con romanzi storici. Partiamo da Milano, spostandoci di qualche decennio in avanti rispetto al periodo che avevamo prima considerato, quello degli Sforza, con Io sono la strega di Marina Marazza, scrittrice e giornalista, pubblicato da Solferino, 494 pagine, 19 euro. È un libro questo incentrato su un personaggio autentico, Caterina Dabroni, che ispirò molti scrittori, compreso lo stesso Manzoni, che erano stati colpiti dalla drammaticità della sua vicenda, di cui si occupò anche ancora Leonardo Sciascia, che andò a riguardarsi bene le carte per concludere che effettivamente la stessa Caterina aveva definito se stessa come una strega capace di trarre benefici dai servigi resi al demonio. E troveremo nel libro anche una vincente ricostruzione della Milano borromaica, con i suoi poeti come Fabio da Varese, gli artisti come Fede Galizia. Nel processo a Caterina sopravvivono parzialmente gli atti, che sono custoditi presso l'archivio di una nobile famiglia milanese, e questi archivi hanno fornito il materiale per questa storia appassionante di caccia alle streghe, che si intreccia con quella di Salem, un personaggio di fantasia, il boia della vicenda, ambientata in una Milano già allora vivace e instancabile, come ricordano queste righe. Non avevo mai visto così tanta gente, così tanto traffico, così tanti commerci, così tante carrozze e viandanti e tante botteghe una dietro l'altra, con gran viavai di persone che ne entravano e ne uscivano. Le vie prendevano il nome dalla professione degli artigiani che vi si concentravano, la strada degli orefici, dei fustagnari, degli armaroli, degli spadari, dei berrettari, dei pennacchiari, dei borsinari, degli speronari e di qualunque altro mestiere. Tutto quel che potevi volere, lì c'era. Per chi avesse scudi nella scarsella, si intende. Un'altra vicenda, anch'essa dominata dai sortilegi e che si svolge all'incirca nello stesso periodo, ma a Napoli, è quella raccontata nella vera storia di Marzia Basile, di Maurizio Ponticello, pubblicato da Mondadori, 332 pagine, 19 euro. E anche questa storia si ispira a una storia vera che aveva suscitato pure essa tante attenzioni letterarie. Essa ebbe il suo epilogo nel 1603, quando la protagonista era stata giustiziata perché accusata di aver ucciso il marito. E la storia, anche essa ricostruita appunto dagli archivi, prende le mosse da un cantastorie coevo alle vicende, Giovanni della Carriola, che era stato testimone dei fatti. E la vittima era una sposa bambina, vittima delle violenze del marito, Marzia, che non solo cercherà di affrancarsi dalle proprie condizioni di soggezione, ma si avvicinerà a una sorta di comunità femminile, quasi protofemminista, che indulgeva ai sortilegi. Poi la svolta con un amore impossibile che sarà l'inizio della fine per Marzia, trasformatasi negli anni in un'eroina appunto protofemminista che si muove in una Napoli carnale e vivacissima. Facciamo invece un salto di qualche secolo con una donna celebre e riverita di cui ci parla la figlia, Costanza Fan de Rivera, in L'ultima leonessa, la vita di Giulia Florio, mia madre, pubblicata da Spelling & Kupfer, 288 pagine, 16,90 euro. Giulia è la figlia della celeberrima Franca Florio, una delle dame più in vista nel primo Novecento. E proprio Giulia fu l'ultima discendente della grande famiglia siciliana, era nata nel 1909 e quindi visse gli anni del declino della famiglia che non la travolgerà. Giulia infatti si trasferisce a Roma, studia, sposa un aristocratico e si distingue durante la Seconda Guerra Mondiale per la determinazione con la quale affronta l'ufficiale nazista Herbert Kappler, mettendo in salvo presso il proprio palazzo molte famiglie ebraiche di Roma, impegno che le valse la memoria assieme al marito nel Giardino dei Giusti di Gerusalemme. L'autrice ricostruisce con un occhio partecipe gli ultimi sprazzi della casata e rievoca naturalmente la nonna Franca, ma appassionanti sono soprattutto le pagine dedicate appunto ai mesi dei rastrellamenti a Roma, ai quali Giulia Florio reagì con il coraggio descritto in queste righe. A Palazzo Costa Guti i giorni furono pieni di uno stillicidio di partenze. Lentamente le famiglie nascoste per mesi nelle intercapedini fra i vari piani si trasferirono altrove, trovando appoggio presso le famiglie dei parenti che vivevano nelle zone liberate. Si stringevano mani e cuore, si abbracciavano con gli occhi pieni di lacrime malinconiche, riconoscenti per l'amore ricevuto, con la promessa sincera di un'eterna riconoscenza. Giulia scrollava le spalle quasi imbarazzata, sentiva di avere agito secondo coscienza, di non aver fatto nulla di speciale. Minimizzava l'eroismo silenzioso di quei mesi, considerandolo una semplice espressione della sua immensa umanità. Per tutto il periodo successivo al rastrellamento del ghetto, una finestra era rimasta sempre aperta. I miei genitori avevano predisposto delle passerelle di legno su via della Reginella tra la loro terrazza e quella di un palazzo dirimpetto, in modo che in caso di nuove emergenze chiunque potesse accedere al loro palazzo. Non chiedevano i nomi a nessuno, alcuni li conoscevano già. Si salvarono così le famiglie dei Fiorentino, dei Segni, dei Pavoncello, dei Sermoneta. Per mia madre erano soltanto Esther, Miriam, Aronne, David, Mosè, Rachele, Ruth, Emmanuel, Giacobbe, Ismaele, amici per sempre. E sulla terribile esperienza degli ebrei romani vi segnalo un libro denso di umanità di Claudio Bondi e Stefano Piperno, Perché ci siamo salvati, pubblicato da Marsilio, 188 pagine, 17 euro. Gli autori sono due cugini, due anziani cugini, che rivivono l'inizio e lo svolgimento delle persecuzioni razziali a partire dal 1938. Sono gli ultimi testimoni dei ricordi familiari, si affidano anche al diario del padre di uno dei due, Maurizio Bondi, e hanno tratto da questo scavo una scoperta apparentemente assurda ma decisiva, ma di come cioè gli ebrei e i loro familiari, scrivono, abbiano continuato, malgrado la congiura della sorte avversa, a studiare e lavorare, sposandosi e mettendo al mondo dei figli, con una solida fiducia nel futuro. Oggi i due autori osservano come l'Italia abbia molto meno coscienza del proprio passato fascista di quanto per esempio abbiano i tedeschi. E la storia, in forma epistolare tra i due autori, parte dunque da due coraggiosi matrimoni celebrati proprio nel 42-43, quelli dei rispettivi genitori di Bondi e Piperno, allora appena ventenni, il cui anelito alla felicità, scrive Piperno, superò qualunque ostacolo, la normalità del bene contro la banalità del male. Ma questo sarà l'ultimo guizzo vitale, commenta Bondi. Ognuno racconta la sua storia, quella della famiglia, le condizioni degli ebrei prima e dopo le leggi razziali, ne vengono fuori reciproche scoperte, si delineano i contorni della tragedia che incombe, che i protagonisti vivono con gli occhi da bambinetti. Il solo 16 ottobre del 1943 saranno 1022 gli ebrei romani deportati e ne torneranno in 16, in tutto saranno 2091 gli ebrei romani deportati, di cui soltanto 98 i superstiti. Ma non tutto andrà perduto, perché per la lunga storia di convivenza che era tradizionale fra gli ebrei e Roma, senza conflitti violenti, scrive Stefano Piperno, nel momento supremo del bisogno la stragrande maggioranza dei romani, in gran misura quelli di estrazione popolare, ha aiutato, nascosto e protetto gli ebrei. E un noto scrittore, Alessandro Piperno, che è il figlio di Stefano e dunque nipote di Claudio, nella postfazione mette in luce come il primo, suo padre, risulti spigliato ed esplicito, mentre lo zio risulti più allusivo, e sottolinea la vena gioiosa che dominava la grande famiglia, ma soprattutto come questa aborrisse qualunque settarismo politico. Coglie lo spirito col quale i due autori hanno affrontato la loro impresa. Forse, scrive, fu la loro specie di sfrontatezza a salvarli. Continuarono a concentrarsi alle diuturne faccende della vita, guardandosi bene dal ripudiare la frivolezza, l'incoscienza e le responsabilità che li aveva assistiti anche durante gli anni terribili. Salutiamo Philippe Daverio, storico dell'arte, scrittore, grande divulgatore, ma soprattutto spirito libero e controcorrente, sempre capace di spiazzare e di stupire con osservazioni e valutazioni che a prima vista potevano anche risultare stravaganti o provocatorie, ma che poi ci costringevano a riflettere, a scoprire possibili letture alternative e inaspettate su fatti magari dati per scontati. Ne dà ancora prova di questa sua capacità ad Daverio nell'ultimo suo recentissimo libro, uscito pochissime settimane prima della sua scomparsa avvenuta pochi giorni fa. Il libro si intitola Racconto dell'arte occidentale dai greci alla pop art, 432 pagine, ricchissime di illustrazioni, 29 euro, e pubblicato da Solferino. La cultura occidentale, ci spiega Daverio nell'introduzione, è un fiume carsico, appunto, risultato da una sommatoria di perfezioni greco-latine e di elementi espressivi primordiali, così scriveva Daverio, che convivono in una perenne genetica dialettica. Una dialettica, aggiunge, capace di produrre gli straordinari capolavori che Daverio ci presenta analizzandoli nel contesto sociale e culturale che li ha resi possibili. Daverio insiste sull'importanza dell'Europa in questo processo. Dell'Europa, Daverio scrive che essa ha dato vita a una storia di pace culturale, di guerre sanguinose. E aggiunge: api salvate dalla distruzione del mondo antico e non di meno in costante conflitto, come sosteneva con brio Ortega e Gasset, gli europei hanno non di meno fondato ed elaborato una cultura irripetibile e generatrice nel percorso dell'umanità. Si tratta del percorso di un filo rosso che attraversa il suo divenire, che parte dalla scoperta greca dello spirito scientifico, si sposa con l'individualismo ebraico, accoglie le turbolenze nibelungiche delle invasioni barbariche e si pone oggi sul limite dei secoli, non sapendo se si tratti del suo baratro definitivo o la fortuna di una sua possibile e rinnovata centralità. Così Daverio, con parole che possiamo considerare davvero profetiche e significative di una convinzione profonda dell'autore, che forse resta tra le sue più significative eredità, e cioè che in Europa anche l'arte sia stata una creazione complessa, plurale e politica, come poche altre zone del mondo sono riuscite a far sviluppare. E a questo punto ringrazio Luca Carmelese, redazione, Carmelo Lauricelli, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima. Ora! È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it.